Ritorniamo in studio. Allora, siamo con i leader del gruppo di Veto di Svolta. Abbiamo detto nasce come un duo, ma adesso c'è la band. Cominciamo a presentare chi sono i nuovi elementi che costituiscono questa band, che abbiamo avuto modo, ripeto, di ascoltare al Teatro Comunale Salvatore Cicero la scorsa domenica. Poi parleremo magari anche un po' della manifestazione che si è svolta a contorno del vostro mini concerto. E allora, chi sono il Veto di Svolta, diciamo, edizione 2013? A parte noi due, che ormai siamo, diciamo, il punto fisso, il punto cardine di questo gruppo. Abbiamo Uccio D'Alfonso, che suona al basso, che è il nipote di Cettina, che è, diciamo, uno dei più giovani elementi che abbiamo all'interno del nostro gruppo. Alla chitarra c'è Pippo Di Maio, che Pippo Di Maio è uno di quelli storici insieme a noi, che ha iniziato nell'87 appunto con me personalmente, quindi ce lo ritroviamo oggi in questa neoformazione che abbiamo presentato domenica scorsa. La novità, diciamo, assoluta all'interno di questo gruppo musicale invece è il batterista, che è Vincenzo Coco, del quale penso abbiamo scoperto di essere veramente un elemento valido e produttivo e soprattutto musicalmente preparato, che è quello che a noi necessitava, diciamo, in questa nuova formazione che abbiamo così fatto e costruito questo inverno. E Cettina, che repertorio proporrete quest'estate? Allora, innanzitutto volevo salutare pure io direttamente, un buongiorno a tutti i radioascoltatori e un grazie particolare a te, Giacomo, che per la prima volta mi ritrovo negli studi di CRM. Di solito ascolto da casa, oggi mi sento un po' protagonista. Presso a poco ha spiegato già quasi tutto Vincenzo. Il repertorio sarà vario, anche perché stando sempre in contatto con la gente riesce a captare quello che più può piacere, coinvolgendo giovani, meno giovani, quindi insomma qualcosa di vario, come poi hai potuto ascoltare tu direttamente l'altra domenica al Teatro Comunale. Sì, a parte i vostri brani, di cui parleremo magari in seguito, ho sentito delle cover interpretate in maniera magistrale da te e da Vincenzo. Tiziano Ferro, Zucchero, la Pausini e tanti altri ancora. Ma ci sono i brani, quelli vostri. Naturalmente non si può dire che è il brano più bello, perché ogni brano ha una storia e ogni brano è sempre bello. Quali sono i vostri brani? A cosa si ispirano? Sì, noi diciamo che i nostri brani sono dei brani che alcuni ho scritto io, alcuni qualcuno fatto anche da qualche scrittore di musica importante, che come può essere Angelo Varello, che è la voce solista dei Teppisti dei Sogni, anche un grande musicista. Sì, il tema solito, diciamo, che è quello che un po' ci rappresenta più che altro nei nostri brani, è proprio l'amore. Noi portiamo avanti da sempre questo concetto, forse perché nella vita, diciamo, di coppia sentiamo fortemente questo sentimento, e quindi ci piace molto ribaltarlo anche nelle nostre. Siamo d'accordissimo, è sicuramente il sentimento che dovrebbe circolare maggiormente nel mondo oggi. Oggi questo valore forse si è perso un poco, quello dell'amore. Io spesse volte vedo i giovani non affrontarlo nel modo in cui realmente il valore della parola va affrontato, però di fatto noi ci sentiamo di trasmettere ancora questo messaggio importante, perché è giusto che anche i giovani prendano visione di quello che realmente significa amare un'altra persona in tutti i sensi. Cettina, qual è l'ultimo brano che avete prodotto? È l'ultimo brano che inedito nel tempo che verrà. Mi correggimi, Enzo, se mi sembra. Diciamo. Sì, sì, questo brano scritto da Vincenzo, che allora è un brano che ha fatto tanto tanto successo. E poi la cosa che quella più bella che ti colpisce, qual è? Svegliarti al mattino, magari andare a prendere un caffè, vai fuori città con la macchina e sentire il tuo pezzo che sulle radio di emittenti privati, oppure che escono fuori queste note dalle finestre delle case. Meravigliosa, sensazione veramente fantastica. Un concetto veramente profondo che merita un ulteriore approfondimento magari, però prima dobbiamo ridare la linea alla regia per i tempi tecnici. Linea alla regia. Linea alla regia. E siamo ancora in studio con i leader del gruppo di Vito di Svolta, Cettina D'Alfonso e Vincenzo Liberto. Parlavamo delle canzoni, parlavamo del concerto, inserire una cosa importante che abbiamo tralasciato poco fa. C'è qui quella che è, diciamo, la produzione anche di Vito di Svolta, legata anche a Angelo Avarello. Ho avuto modo di conoscerlo, sì, alcuni anni fa, un personaggio davvero eccezionale, sì. Mi ha pure regalato un CD. No, noi spesse volte gli facciamo da supporto per quanto riguarda alcuni spettacoli che lui fa in Sicilia, anzi a luglio sarà qua nelle zone di Caltanissetta. Posso dire una curiosità, sì. Angelo Avarello aveva una mia foto per il manifesto ufficiale del suo tour, era una foto grandissima, era che avevo fatto durante un suo concerto a Grattere, gliel'avevo inviata, sì. Gliel'avevo inviata, lui era in mezzo al fumo, il ricordo, sì. È un personaggio eccezionale e ricordo, così che l'ho rivisto a Sanremo, dirigere un musicista, ecco. Oltretutto c'era Fabrizio Bosso. Volevo arrivare lì, sì. Anche come, ora, diciamo... Tu lo conosci sicuramente meglio, certo. Lo conosco ce ne parli. Da tantissimi anni. Ho questa fortuna, se vogliamo, e parlavo anche di quella che è, diciamo, la nostra produzione, perché è proprio Avarello che se ne occupa, ma se ne occupa anche sotto un altro aspetto importante, voglio dire, perché la produzione proprio di Angelo Avarello è la stessa produzione che ha prodotto Simona Molinari a Sanremo, appunto per quell'occasione per cui dirigeva, tu dicevi, e c'era, dicevi, e c'era Fabrizio Bosso, il famosissimo musicista jazz. Questo per dire che i Divedo di Svolta hanno anche diciamo una produzione importante che li segue, e soprattutto nel nostro campo ci sono già le agenzie che stanno incominciando a girare per i paesi per iniziare questo tour che dovrebbe iniziare fra un po'. Altra cosa importante, siamo stati invitati metà giugno, penso, invitati nel senso che non per andare a suonare, bensì per andare a vedere se le opportunità, diciamo, di andare a fare un tour a Ginevra, quindi saremo a metà giugno a Ginevra per andare a vedere se possiamo chiudere. Se non sbaglio, siete stati all'estero? Sì, noi siamo stati in Francia, siamo stati in Svizzera in altre occasioni e siamo stati in tanti altri paesi. Stiamo vedendo anche se c'è l'opportunità di creare uno scambio culturale. In questi giorni ne stiamo parlando con la responsabile, con la Romania. Paese che sta crescendo anche dal punto di vista musicale, che ha importanti tradizioni anche nella loro musica, per cui stiamo vedendo di fare una specie di scambio culturale proprio con questo paese, anche attraverso i Divedo di Svolta, andare là e magari creare delle opportunità per creare una vetrina di quelle che sono le loro, diciamo, le loro musiche qua in Sicilia, o dove si può. A questo punto sicuramente qualche lettore avrà in mente la domanda cattiva, ma ci sarà la possibilità di fare un festival, o quantomeno di sentire il Divieto di Svolta quest'estate? Sinceramente ne abbiamo riflettuto anche con Cettina e con gli altri, perché noi nel nostro, diciamo, gruppo siamo molto democratici, nel senso che ogni situazione viene condivisa e scelta insieme. Su la questione Cefalù noi pensavamo sinceramente se c'è l'opportunità naturalmente di offrire il nostro spettacolo nel contesto della festa del Salvatore. Ora, adesso io non so quali saranno gli impegni, se può, in quale giorno potrebbe ricadere, però abbiamo intenzione, se c'è l'opportunità, vediamo, di discuterne anche, di offrire quello che è il nostro spettacolo in toto, cioè un'ora e tre quarti di spettacolo, due ore circa, per appunto per la festa principale della nostra città, in modo squisitamente gratuito. Naturalmente, naturalmente, no, c'è valore, per carità, certo. Quando parliamo di musica, certo. Lo ha detto anche il nostro sindaco, purtroppo, certo, non possiamo controllarci la SIAE, però per quantomeno diciamo quella che è la nostra performance, noi la mettiamo a disposizione per questa che è la nostra festa, ripeto, in formula gratuita, senza nessun compenso, ecco, anche per dare il nostro contributo alla città e alla festa principale. E noi ci facciamo portavoce di questa proposta del gruppo di veto di svolta, il comitato. Lo abbiamo già fatto al sindaco, quindi. Che è presieduto dal sindaco, c'è tutto il comitato, se non sbaglio, alla richiesta sul tavolo sicuramente. E altro appuntamento, abbiamo detto, si sta iniziando questo tour che sarà probabilmente anche europeo, noi ce lo auguriamo. Speriamo, stiamo vedendo di spostarci anche. Naturalmente voi avete detto 26 anni di esperienza, ne avrete senz'altro visti gruppi nascere, crescere, sparire. Sulle Madonie e Cefalù, diciamo, come vedete attualmente il posto, qual è la situazione dal punto di vista musicale? L'appuntamento, credo che tu ti voglia poi andare, sì, a riferire quello che è l'appuntamento di domenica. Di domenica. L'idea di creare questo appuntamento di domenica era appunto per dire alle amministrazioni, che ai presenti e a chi ci ha ascoltato, che appunto di non fare morire queste che sono le realtà anche madonite nei vari settori, nei vari campi. Io penso e penso che insieme abbiamo visto una vegina domenica di artisti, devo dire, eccellenti dal punto di vista, diciamo, nel proprio ambito, e poi abbiamo toccato anche diverse tematiche secondo me importanti, che forse non sono inerenti al tema, diciamo, del arte e cultura, però sono un po' l'indotto. Per esempio l'ingegnere Giobbi ha parlato di quello che sono le norme di sicurezza nel pubblico spettacolo, pur non sembrando attinente, fanno parte dell'indotto, perché sono anche a contorno di quello che è lo spettacolo. E oggi le norme di sicurezza sono importanti anche sul palco per evitare incidenti, appunto come quello che è capitato qualche artista noto nel montaggio della propria attrezzatura, dove qualcuno possibilmente ci ha lasciato anche la vita. La situazione è tragica per chi, soprattutto magari noi stando a Cefalù possiamo avere forse un attimo di visibilità in più, ma per chi vive nelle Madonie possibilmente ha qualche restrizione per poter uscire fuori. Era proprio questo il messaggio di domenica. Certo, indubbiamente un concerto al teatro comunale ha una risonanza, il concerto di una piazza delle Madonie probabilmente passa inosservato. Sì, sì, e l'abbiamo fatto a Cefalù per un semplice motivo, per il discorso che in questi giorni si è parlato anche della perdita della centralità di Cefalù. Vedi l'esempio della questione dei lenzuoli fuori, per cercare, sì, di far capire che Cefalù è un po', diciamo, la porta di tutte le Madonie, ed è stato scelto Cefalù come location per parlare di artisti di arte madonie in genere, appunto per cercare anche in questa occasione di riportare, diciamo, la centralità verso Cefalù, a partire da Cefalù poi verso le Madonie. Ecco, questo era anche il concetto di volerlo fare a Cefalù, questo appuntamento, che spero abbia una crescita anche negli anni, perché se questo appuntamento diventasse realmente una vegina per quelli che sono gli artisti, diciamo, della Madonia, sarebbe anche importante, perché uno sa che ogni anno a quell'appuntamento può trovare le risorse e può vedere soprattutto le risorse che esistono e che nascono anche nel nostro territorio. Un appuntamento che dovrebbe concentrare anche tutti gli amministratori, diciamo, delle Madonie, anche perché, diceva Antonogello, spesse volte spendiamo un sacco di soldi per avere artisti di un certo spicco, di un certo rilievo, lo capisco, però spesse volte, quando i tempi non lo permettono più, perché non lo permettono più i tempi di poter fare queste grosse spese, cerchiamo di spenderle in modo anche intelligente, cioè sfruttiamo sicuramente quelle... non per voler vantare gli artisti nostri locali, ma il livello non ha nulla da invidiare con tantissimi altri gruppi che vengono da fuori. Ho visto, sono stato incuriosito, come Pino Semplicio diceva appunto durante la manifestazione, di quell'artista che fa le sculture con i chiodi. Cioè, io ho visto queste opere sul giornale, ho letto l'articolo, poi sono andato a vederle personalmente. Cioè, sono delle cose che uno neanche va a pensare. C'è una scultura che chiodi. Certo, ricordiamo che la manifestazione non si occupava soltanto di musica, ma di arte in genere, quindi c'erano gli scultori come Roberto Giacchino sul legno, lo scultore dei chiodi. Giacchino è un altro di questi che rientra, diciamo, in queste grosse potenzialità che noi abbiamo. Gioacchino fa delle cose che sono interessantissime, bellissime. Abbiamo esposto una delle opere sul palco che appunto lui mi ha così gentilmente concesso in fiducia, e lo ringrazio, che abbiamo messo esposto e che proprio era forse inerente, direi, alla manifestazione, perché si intravedeva una specie di chitarra fatta. Sì, lui è un grande appassionato di musica, anche nelle sue sculture. Una sua opera è stata esposta a Roma, e poi, così lo ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori, quest'estate ha avuto ospite suo personale il premio Oscar per la musica, per la miglior colonna sonora dei film di Walt Disney, che si chiama anche Michael Giacchino, come probabilmente dovrebbero essere dei parenti o dello stesso ramo dei Giacchino. Il premio Oscar è un musicista che ha vinto il premio Oscar per il film Up di Walt Disney, e poi ha ricevuto decine di awards, ed è l'autore delle colonne sonore di Mission Impossible, Star Trek, film di Spielberg, film Cars 2 e tanti altri brani ancora. Quindi, diciamo, Cefalù tutto sommato è una vetrina importante dove passa gente che magari noi non trattiamo, ma che in realtà sono personaggi di altissimo livello. Io penso che non si dovrebbe solo mettere in evidenza e sfruttare diciamo questi personaggi che vivono in quest'ambito, ma dovremmo a sua volta, come città, come paese, pubblicizzarle che abbiamo noi queste risorse altrove, dire noi abbiamo queste risorse, noi abbiamo risorse come Roberto Giacchino, come tanti altri che vivono nell'ambito della cultura e dell'arte. Sarebbe per noi motivo solamente di orgoglio poter fare pubblicità di queste nostre risorse. Parliamo di un gruppo che non mi fa concorrenza, anche perché nella musica non esiste la concorrenza, esiste la sana competizione, perché uno piace uno, l'altro piace altro, un giorno voglio ascoltare la classica, un giorno voglio ascoltare il rock. Sì. Parliamo di un gruppo che è così molto più spontaneo, diciamo, perché sono da un gruppo di amici che si riuniscono, i Vanni 36. Sì. Ora stanno organizzando un concerto, non parliamo del gruppo naturalmente, parliamo della loro iniziativa, stanno organizzando un concerto dietro Castello, perché hanno intenzione di recuperare un anfiteatro importante. Tu sei un amministratore comunale, Enzo Terrasi, che è il leader dell'altro gruppo, è un altro consigliere comunale, siete all'opposizione ma uniti dalla musica. Ecco, quello spazio... che valore potrebbe avere per la città? Parla da musicista e, se vuoi, anche da consigliere comunale. Io ancora, diciamo, l'ho visto nel momento in cui ancora non è stato né curato né niente, qualche anno fa. So che hanno fatto un ottimo lavoro di pulizia, di spianamento, eccetera, eccetera. Potrebbe diventare, secondo me, un angolo importante, diciamo, della città, dove poter svolgere anche determinate cose. non vedo il nostro spettacolo lì, perché diciamo più dedito a un concetto, potremmo anche farlo, però vedo un angolo dove fare cose particolari, ecco, musica magari di un particolare, tipo che so, degli attimi di blues o jazz, per esempio, sarebbe un angolo, il genere che faranno loro, sì. Lo anticipiamo così, quindi va, io lo sfrutterei anche in tal senso, per dare proprio questa cartolina abbinata a musica un po' più particolare, magari. Certo, anche se si fa del 3500 posti lì, magari porteremo anche una roba. Questo è un altro discorso, ma mi sembra un po', diciamo, difficile lì istituire una struttura del genere. Magari si potrebbe fare. La linea alla regia nuovamente. E siamo ancora in studio, ancora qualche minuto in compagnia dei Divieto di Svolta, Gettina D'Alfonso e Vincenzo Liberto, ma ricordiamo nel gruppo ci sono anche Uccio D'Alfonso, c'è poi Vincenzo Coco e Pippo Di Maio. Li abbiamo presentati, ma stavamo parlando di Cefalù e della possibilità di avere un impianto nuovo per gli spettacoli. Ma intanto abbiamo visto il Teatro Comunale, il sindaco ha assicurato che entro quest'anno sarà totalmente aperto, perché ricordiamo al momento soltanto la platea e il primo livello di palchi è fruibile al pubblico. Ecco, che impressione avete avuto voi del Teatro Comunale? Cettina, te che impressione, tu che hai cantato da solista? Allora, una sensazione meravigliosa, una profonda emozione trovarsi in teatro, anche se dappertutto, per carità, però mi sembrava proprio un luogo adatto all'evento. Un luogo recuperato, importante. Recuperato, meraviglioso, e che penso che ha trasmesso emozioni a tutti quanti, penso non a me da sola, ma a tutto il gruppo. E che approfitto, se mi permetti e lascio il microfono ad Enzo, io li volevo ringraziare pubblicamente, a tutto il gruppo che ci accompagna, mi sento veramente felice di lavorare insieme a loro, hanno sgobbato in questi giorni duramente, ma ci sto bene, perché condividiamo dei momenti veramente fantastici, ci divertiamo, e quindi la cosa penso che è più importante nella realizzazione del tutto sia proprio questo. Io li ringrazio pubblicamente a Vincenzo Coco, Pippo Di Maio e Salvuccio D'Alfonso. Vincenzo è scontato il leader di questo gruppo, lo ringrazio perché ha messo a disposizione veramente tanta fatica, il tempo prezioso e dei sacrifici, perché fra l'altro stava anche male, quindi ha organizzato il tutto in meno di una settimana, e anche con la febbre a 38. Un grazie anche a te pubblicamente, e ti lascio il microfono perché sei molto più bravo a parlare, più abituato, Giacomo, sì, è vero? Ma soltanto perché è consigliere comunale. No, pensavo il discorso, ora vedi, mi leghi sul discorso del consigliere comunale, perché io sulla questione ultimamente ho posto una interrogazione al sindaco, del quale aspetto risposta, dal punto perché mi chiedevo come mai il teatro non fosse sfruttato, diciamo, in pieno. Perché solamente 103 posti, 105 posti e non i 207 posti che sono previsti? Aspetto questa risposta dal sindaco, speriamo me la dia al più presto per spiegarmi le motivazioni, ma mi ha fatto piacere che in quella sera abbia già si sia posto, diciamo, un'addirittura d'arrivo, sì, sulla questione, se ho ben capito, entro il 31 dicembre di quest'anno il sindaco ha assicurato che il teatro sarà in piena forma, nel senso che sarà sfruttabile al massimo dei posti che ha, e questo speriamo che diventi una realtà, questa sua impegno. Naturalmente poi ci sarà la risposta anche scritta nella sede istituzionale, una sede istituzionale che pensavo proprio in questo momento ha al suo interno almeno tre musicisti di ottimo livello, Terrasi e anche Giovanni Iuppa, che è un bravissimo batterista, e oltretutto suona in più gruppi. Sì, sì, no, Giovanni bravo. È uno. È, anche loro sono dei bravi musicisti, hanno scelto, diciamo, di fare musica scegliendo anche un tipo di musica anche loro. Per esempio, si basano più sugli anni '80, ecco, su questa musica che andava sugli anni '80, divertentissima, eccetera, anche da vedere e da ascoltare. Sono bravissimi anche loro. Sì, lo citiamo, visto gli Alta Frequenza. Certo. Sì, sì, certo. Sì, sono certo. Gli Alta Frequenza. Ma lo abbiamo detto, ce n'è tanti, ce ne sono tantissimi gruppi, sicuramente, ci sono oltretutto, Cefalù è sede di gruppi storici, ci sono oltretutto dei musicisti che sono da tantissimi anni, vorrei ricordare per esempio quelli degli Apache, quelli di Gigi Nobile, ex Cavernicolo, Leandro Parlavecchio, sono delle risorse davvero, Nicola Chisesi, sono delle risorse da... sicuramente certo. da che c'è fatto il fatto sfruttare. Che dicevi poco fa della musica che unisce da un certo punto di vista è vero, perché per esempio Salvuccio, che diciamo in quota Divieto di Svolta, storico con Divieto di Svolta, per esempio suona anche con gli Apache, diciamo così come il chitarrista che ha Giovanni Iuppa, che Marco Pitonzo, sì, prima suonava con noi, ecco, diciamo c'è sempre una specie di collaborazione. Ovviamente i musicisti di valore sono circolano, ma poi oltretutto ricordiamo che Cefalù ha quattro bande musicali, ha delle scuole di musica, ha tantissimi insegnanti che danno lezioni di musica, c'è il conservatorio, lo ricordiamo sempre, quindi Cefalù è una, sì, città, sì, della musica, quindi dal, sì, punto di vista politico è un'immagine che bisogna lo è da qualsiasi punto di vista. Cefalù, arte, musica e cultura, lo è in tutti i campi, e io colgo l'occasione, l'ho fatto antecedente, per ringraziare anche Pino Semplicio, che ha condotto la serata in modo egregio, così come lui è abituato a fare, così come noi non avevamo dubbi lui potesse fare. Lo ringrazio anche perché fa parte qua dell'entourage di CRM, quindi mi sembra anche giusto metterlo in evidenza, così come ringrazio tutti quelli che sono intervenuti alla manifestazione, fra cui il classico Antonio Ugello, che ci dà sempre la sua disponibilità, e tanti altri, Castelbuono, che è stato presente anche col proprio rappresentante, che è la dottoressa Anna Studiale, e Giacchino, che ci ha dato sia il video sia la statua da mettere lì sul palco, l'abbiamo fatto vedere durante la serata, e tutti, Tony Torregrossa, che è il prestigiatore che si occupa di quelle che sono le animazioni, ringraziamo il DJ Sindaco che si è prestato ad un gioco di prestigio non facile, che devo ricordare. Infatti, si occupa di quello che è il settore dei bambini, l'animazione dei bambini, che vive a Peggialia, ma che è stato presente anche lui alla nostra performance, a questa nostra vetrina, e grazioso anche il gruppo degli MD, che ha presentato questo nuovo lavoro che hanno fatto attraverso anche l'ultimo video, diciamo, del loro singolo. Sì, e gli MD sono un gruppo di Motta da Fermo. Sì, sono i Motta da Fermo, stanno a Palermo, però lavorano sul territorio madonita, cioè spesso volte sono hanno legami con Cefalù. Sono presenti. Lasciamo i legami, che a me poco importa, diciamo, mi importa più che rappresentano dal punto di vista artistico. No, giusto, lo dicevo giusto perché li sentiamo anche un po' nostri da domenica sicuramente, in sicuramente. Poi sono anche un po' un gruppo nostro, Cefalù, sì, almeno per un pezzettino. Scillato, diciamo, è stato presente anche con il loro rappresentante. Insomma, tutti quelli che erano là, io approfitto di CRM per ringraziarli personalmente, perché senza il loro contributo sicuramente questa serata non avrebbe avuto il successo, diciamo, che ha avuto. A conclusione della serata, naturalmente non tutti l'hanno seguita diciamo, di presenza, ma come possiamo riassumere gli interventi che ci sono stati? Qual è il messaggio che esce fuori alla fine di questa serata? È un appello? Ma io credo che sia proprio un appello nel dire: noi ci siamo qui, sfruttateci per quello che siamo e per quello che siamo capaci di fare. Questo penso che sia il messaggio. L'altra cosa importante sarebbe se realmente i comuni delle Madonie, del comprensorio, anche estendendolo, perché per esempio c'era l'assessore di Santo Stefano di Camascio, anche se non è stato presentato, era lì seduto che si vedeva. Ecco, cercare di impiantare un'idea che possa essere un programma di manifestazioni comune delle Madonie attraverso anche l'interscambio culturale di questi artisti che potrebbero, quello di Castelbuono spostarsi a Pegialia, quello di Pegialia venire a Cefalù, ecco, creare proprio un calendario comune. Le amministrazioni si potrebbero anche impegnare in questo senso e così quantomeno fare un programma di manifestazioni delle Madonie che possa anche contenere i prezzi. Questo potrebbe essere il messaggio che potrebbe partire dalla manifestazione di domenica. Ce n'è tante altre di cui non abbiamo parlato oggi, ma di cui faccio cenno e di cui è rappresentante anche chi è in regia, per Santo esempio Genovese. L'Ascio d'Argento, che è una manifestazione importante che gira tutti i comuni delle Madonie e che dà la possibilità ai ragazzi che non hanno questa possibilità di fare vedere le proprie capacità. Ecco, il Lascio d'Argento è una di quelle situazioni che permette a questi ragazzi di dare la possibilità di parlare di sé, di fare vedere ciò che loro sanno fare. L'opportunità è ancora più grande perché questa occasione può rendere felice qualcuno che può arrivare anche a manifestazioni più grosse come quelle, diciamo che abbiamo visto, Casciocaro o Cantagiro, eccetera, eccetera. Sì, proprio domenica Santi si trovava a Montecatini Terme, se non sbaglio, o a Castrocaro, sì, dove ha portato alcuni giovanissimi, perché c'era il Cantagiro Junior. Se ci vuole dare soltanto un piccolissimo cenno. Allora, intanto diciamo che ero a Castrocaro e mi è dispiaciuto non poter assistere a questa bellissima manifestazione, ma c'era la rappresentanza nostra del gruppo con cui lavoriamo, l'Associazione Music in the Art, e io ringrazio Luigi Cernigliaro come vicepresidente che ha preso anche la parola, e soprattutto un ragazzo che noi abbiamo prodotto qualche anno fa e che ti annuncio in anteprima che praticamente il giorno 3 sarà a Roma e sarà ai provini di Amici. Parlo di Joker, che è un rapper che sta andando avanti abbastanza bene alla grande, e dunque i primi di giugno sarà proprio a Roma per sostenere questo provino di Amici. Provini che praticamente, lo sai caro Vincenzo, hanno il tempo che trovano, però i ragazzi sono invogliati a queste situazioni. Noi eravamo a Castrocaro, abbiamo portato una finalista siciliana, unica finalista siciliana in gara fra i 10 concorrenti finalisti nella categoria Junior, si è piazzata nei primissimi posti, al quarto posto per l'esattezza. Chiaramente è stata veramente una bella esperienza, perché questo aiuta a crescere, a conoscere soprattutto artisti, soprattutto professori di musica. C'era il maestro Zanca, che ha diretto l'orchestra dal vivo, hanno cantato dal vivo con l'orchestra, cioè sono praticamente delle esperienze che, come tu sai Vincenzo, molti anni fa noi avevamo il maestro che conosco. Tu sei stato uno dei primi a stare sul palco dell'Astro d'Argento, e noi non abbiamo potuto più fare la musica dal vivo per i costi eccessivi che ci sono e che ci vogliono per sostenere questa situazione. Ma io sono stato sempre un promotore della musica dal vivo. Con il maestro Currere abbiamo fatto non so quante edizioni del festival con l'orchestra dal vivo. Oggi purtroppo non è più possibile, perché i costi sono tanti, e mettere su un'orchestra per noi diventa difficile. Forse per queste organizzazioni come il Cantagiro, Castrocaro, anche Amici poi alla fine va su base, non è che ci sia l'orchestra, però dico, la bellezza dell'orchestra oggi è rimasta proprio un'utopia, non è più possibile. Comunque noi lavoriamo per questo, fra l'altro partecipavamo a Vocine Nuove di Castrocaro, è una cosa bella che abbiamo chiuso proprio il contratto con l'organizzazione del Vocini Nuovi di Castrocaro, e l'Astro d'Argento e la Music in the Art per l'anno prossimo si occuperà delle selezioni in tutta la Sicilia, dico in tutta la Sicilia, per poi portare i migliori ragazzini in quel di Castrocaro per cimentarsi con tutti i ragazzi dell'Italia. Questo è quello che noi ci proponiamo di fare. Inoltre chiudo poi, perché la trasmissione è vostra, ma era giusto anche fra un po' inizieremo le selezioni per quanto riguarda il Cantagiro 2013, che devo dirti, Vincenzo, sono stato alla presentazione del festival del Cantagiro in via Veneto a Roma, è stata veramente una cosa eccezionale. Noi cominceremo praticamente questa selezione a partire dal prossimo mese. La nostra organizzazione ha l'esclusiva per Palermo, Provincia e Madonie, dunque meglio ancora, tutti i ragazzi delle Madonie saranno valorizzati all'interno di questa selezione che faremo a partire dal prossimo mese. Perfetto. E allora ritorniamo a parlare con il divieto di svolta. Loro, abbiamo detto, sono sul palcoscenico da 26 anni, si apprestano al tour estivo, al tour 2013, proseguirà penso anche in autunno e nell'inverno. Ci hanno pure assicurato la loro disponibilità per un eventuale concerto per la festa del Santissimo Salvatore, che si svolge, ricordiamo a chi ci ascolta da fuori, dal 2 al 6 agosto. Quindi guardando anche il timer di CRM siamo quasi alla fine. Allora, Vincenzo e Cettina, i saluti finali e un vostro messaggio per non abbiamo parlato per chi si accinge a fare musica. Cosa consigliate voi? Lo diciamo subito. Chi vorrebbe intraprendere la carriera musicale, che prospettive hai in questi tempi non facili? Ma le prospettive sono tante, ne parlavamo appunto, dico, l'occasione per esempio dell'Astro d'Argento è una vetrina importante. Le scuole sono quella base fondamentale che deve già iniziare i giovani ad amare, ad apprezzare la musica. Allora, scusami Vincenzo, ti interrompo due minuti, perché io a Castrocaro ho visto una cosa veramente bella, eccezionale, per un comune piccolissimo. La sera prima dello spettacolo c'è stato il saggio della scuola media proprio di Castrocaro, dove c'erano sul palco, si sono esibiti dal vivo le prime, le seconde e le terze classi, cioè praticamente sul palco c'erano, adesso non voglio esagerare, ma una cinquantina di ragazzi per ogni corso, e che suonavano, cantavano con un maestro che li ha preparati tutto l'anno, hanno fatto un saggio ed è venuto fuori uno spettacolo veramente alla grande, devo dirti alla grande, con pezzi proprio poi difficili di Sting o altri artisti a livello internazionale, arrangiati con strumenti di tutti i generi, come si chiama, le clavette ecco, bravissimo, ai legnetti, al triangolo, ai chitarre elettriche, alla batteria. E poi la cosa bella, ad esempio, un corso aveva tre batteristi. Allora, nel corso dell'esibizione hanno studiato il modo che si alzava uno e si sedeva l'altro batterista e suonava, cioè in una canzone si alternavano due o tre ragazzini. Cioè è stata veramente una cosa eccezionale. Il teatro diciamo dove si svolge la manifestazione era strapieno, stracolmo. Sai cosa manca a Cefalù, secondo me? Una scuola della musica, ma non una scuola della musica indirizzata perché verso il classico, perché per questo ci sono le bande musicali. Ecco, dico, perfetto, hai centrato l'obiettivo. Qui proprio bisogna educare anche alla musica pop. Sì. Manca proprio una scuola della musica, cioè, pop, tutti rock. Tutti sul classico o sulla banda musicale. Sì, e non hanno altre, diciamo, altre prospettive all'infuori, quelle che possono essere le bande musicali o la scuola. Bisognerebbe impiantare una scuola proprio di musica che indirizzi verso altri ambiti come il pop, il rock, esatto. Canto in se stesso, il lirico pop potrebbe essere, adesso c'è venuta fuori questa categoria, ad esempio all'interno del Cantagiro c'è il lirico pop, il classico rappresentante a livello nazionale e internazionale, Bocelli, insomma, sì, questi stili qua, cioè non viene personalizzata e presa in considerazione questo genere genere musicale, ma si fa o la corale o si fa la musica classica. Diciamo, siamo restrittivi da quanto punto. Allora, io ti ringrazio perché questa è stata veramente un'esperienza bella che ho visto di questi ragazzi, ti ripeto, per ogni corso, prima tutte le prime, poi tutte le seconde, poi tutte le terze, e questo maestro che era eccezionale a vederlo nei movimenti, cioè lui praticamente con dei movimenti ben precisi riusciva a trasmettere a questi ragazzini quello che dovevano fare, incredibile. Vabbè, io adesso vi rubo per un attimo la platea perché devo mandare in onda l'ultimo stacco pubblicitario prima della conclusione del programma e poi salutiamo e ci sentiamo fra un po'. Ok, allora pubblicità, linea alla pubblicità. E ritorniamo in studio solo per i saluti, intanto un grazie alla signora Cetti D'Alfonso, voce solista del gruppo De Veto di Svolta, e al leader Vincenzo Liberto, grazie per essere state in questa trasmissione che va in onda il mercoledì in replica in altre fasce orarie. Complimenti però innanzitutto anche per quanto ci avete regalato e quanto ci regalerete, per l'emozione che trasmettono le vostre canzoni inedite, ma anche le cover magistralmente da voi interpretate. Grazie per essere intervenuti. Grazie a voi. E noi dovremmo ringraziarvi, anzi, che ci date lo spazio di poter parlare sia di noi sia dell'appuntamento di domenica. Spero che riserviate, io so che tu lo fai generalmente, a tutti quelli che sono nell'ambito della musica, dell'arte e della cultura, gli spazi dovuti, perché bisogna metterle in evidenza e bisogna fare sapere a tutti che noi siamo qua, sfruttateci. Questo è il messaggio finale che vogliamo lasciare. Allora, volevo ringraziare anch'io a te Giacomo per la tua gentilezza come sempre, a tutti quelli che ci seguono, quelli che sono arrivati numerosi in teatro domenica sera, a tutti quelli graziosissimi che ci lasciano dei commenti così graziosi su Facebook e su tutto. Una cosa che mi ha colpito, che voglio dire così pubblicamente, forse è il discorso di avere trasmesso delle profonde emozioni. Mi è stato riferito che vi era un teatro così emozionato quella sera. Ebbene, io spero, ed è una promessa, che insieme al mio gruppo musicale potrò ancora trasmettere queste profonde emozioni. Il grazie spetta a me, grazie a tutti di vero cuore, seguiteci, non vi scordate di noi, va bene, dei Di Veto di Svolta, grazie. E allora un grazie a tutti voi che siete stati in ascolto, vi ricordo ancora una volta che potete diventare fan anche del gruppo Di Veto di Svolta cercandoli su Facebook. Ancora un grazie a Sandro Genovese che è stato in regia, e a tutti uno a risentirci alle prossime trasmissioni. Ciao. Grazie. Avete ascoltato Note, a cura di Giacomo Sapienza.